Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Carenze d'organico nelle amministrazioni locali, assunzioni sbloccate per i municipi, ma il posto pubblico resta poco attrattivo. 30 all'ora nei centri cittadini, apertura della regione con incentivi ai comuni, ma non sulle strade d'ingresso e di principale scorrimento. Il 12 aprile a Trieste la cerimonia per la laurea honoris causa al Presidente della Repubblica Mattarella e all'ex Presidente sloveno Borut Pahor. Turismo tedesco protagonista in regione, le presenze si rafforzano non solo sulle spiagge. A Monaco il Friuli Venezia Giulia incontra stampa e operatori del settore per un ulteriore sviluppo. Pordenone tornano le misure antismog nel capoluogo e in altri 13 comuni. Sport, tuffi grandi altezze ai mondiali di Doha, il triestino Barnava chiude al nono posto la gara dalla piattaforma 27 metri. 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Lara Zani. Cominciamo con il dibattito sulla riduzione della velocità dei veicoli nei centri urbani. Dalla regione, attraverso le parole dell'assessora Amirante, è arrivata nelle ultime ore l'apertura sui 30 all'ora. Vogliamo sostenere i comuni interessati a istituire zone 30, ha affermato, a patto che i cittadini vengano coinvolti nella progettazione partecipata e siano esclusi i principali percorsi di ingresso ai centri urbani e quelli di scorrimento. L'obiettivo è la riduzione di traffico e incidenti. Lo faresti in Friuli Venezia Giulia? Io direi di no. Nella sua diretta Facebook del 6 febbraio, Fedriga si riferiva al limite dei 30 all'ora a Bologna. In una nota, l'assessore regionale alle infrastrutture, Amirante, ieri ha chiarito più nel dettaglio la posizione della regione. No ai 30 km all'ora estesi indiscriminatamente a tutta la città. Sì, invece, al mantenimento di una gerarchia delle strade con i principali percorsi di ingresso e quelli di scorrimento mantenuti a 50 km orari. Zone 30, quindi, soprattutto nelle aree residenziali, dove possono sostituire le ciclabili. Per crearle, la regione stanzierà linee di finanziamento incentivanti, ma a partire dall'anno prossimo, perché ora, aggiunge Amirante, i comuni sono già alle prese con le scadenze del PNRR. Plauso alla comunicazione sulla necessità di estendere le zone 30 arriva da Mauro Capozzella del Movimento 5 Stelle. Sulla differenza tra zone 30 e città 30 si gioca il dibattito politico. Nel capoluogo giuliano, per esempio, non verrà accolta una mozione di Adesso Trieste che chiede un piano per ridurre il limite di velocità ovunque in centro ai 30 km orari. Non vuole imporre il limite a tutta la città l'assessore Babuder. Zone 30 furono già istituite nel piano urbano mobilità sostenibile del 2020, indica, e verranno rafforzate settimana prossima con una delibera detta salva pedoni per implementare la sicurezza in alcune zone. A Gorizia, con l'entrata in vigore del nuovo BC Plan entro l'anno, le zone 30 saranno pianificate nelle aree residenziali. Parla di polemica sterile l'assessore Marchiol a Udine. La priorità, indica, è in primis applicare ovunque azioni di ripensamento dello spazio urbano nell'ottica di un aumento della vivibilità e della sicurezza, come da indicazioni dello stesso ministero, e in seconda battuta scegliere quali aree rimarranno a 50 km orari. Nel caso di Udine, per esempio, l'anello di viali che racchiude il centro storico. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il nodo delle carenze di organico nella pubblica amministrazione, in particolare nei comuni più piccoli, ha radici profonde e parte dai vincoli della spending review. C'è poi la questione della scarsa attrattività del posto pubblico, se ne è parlato. Buongiorno Regione. Mentre i comuni più grandi riescono a gestire il problema della carenza di organico, le difficoltà sono in quelli più piccoli, dove negli ultimi 15 anni il personale è stato ridotto anche del 20% a causa della spending review. E poi si arriva anche al caso limite, quello del comune di Grimacco, rimasto addirittura senza dipendenti. Dorino Favot è presidente dell'ANCI regionale. Questo significa mettere in difficoltà i cittadini, che alla fine sono quelli che vanno direttamente dal sindaco, dall'assessore, a chiedere determinate risposte. E succede spesso e volentieri che ci siano degli amministratori che sono costretti a fare non gli amministratori, cioè nel senso di studiare e mettere in atto delle politiche di sviluppo e di prospettiva per i propri comuni, ma si trovano a gestire loro stessi le cose quotidiane e a fare loro stessi i responsabili dei servizi. Intanto le nuove norme regionali hanno consentito di ripartire con le assunzioni, ma i concorsi dei comuni vanno spesso deserti oppure pochi mesi dopo l'assunzione i neodipendenti vincono altri concorsi lasciando la posizione sguarnita. C'è però l'opzione dei concorsi unici regione-comuni. Due i vantaggi: il comune evita di organizzare un concorso, che è una procedura complessa, e allo stesso tempo si riesce ad avere una graduatoria di scorrimento unica. La risposta migliore è rappresentata dalle aggregazioni di comuni, che consiste nella gestione comune di servizi, oppure la costituzione delle comunità, e cioè dei veri e propri enti locali, che consentono di garantire e gestire meglio più servizi, dalla polizia locale ai tributi. Trieste, Vaciucchi, GR Friuli Venezia Giulia. Torneranno a incontrarsi fra due mesi a Trieste Sergio Mattarella e Borut Pahor, a poco meno di 4 anni dalla storica doppia stretta di mano al Narodni Dom e alla Foiba di Basovizza. L'occasione sarà il conferimento della laurea ad honorem al capo dello Stato e al presidente emerito sloveno. Venerdì 12 aprile sarà con molta probabilità quello il giorno in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà a Trieste, assieme all'ex Presidente della Slovenia Borut Pahor, la laurea honoris causa in giurisprudenza assegnata dall'Ateneo Triestino nell'anno del suo centenario. Ad anticipare la data alla stampa locale è stato il rettore Roberto Di Lenarda, che aveva preannunciato il progetto del conferimento già a dicembre, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Una data che, come detto, non è ancora blindata ufficialmente, ma su cui tanto lo staff di Pahor che gli uffici del Quirinale stanno lavorando in parallelo. Sarà un'occasione dal forte significato simbolico, che celebrerà a 4 anni di distanza la visita congiunta del 13 luglio 2020, quando i due presidenti parteciparono alla cerimonia di riconsegna del Narodni Dom alla comunità slovena di Trieste e a Basovizza resero omaggio, stringendosi la mano, al sacrario delle vittime delle foibe e al monumento ai partigiani sloveni fucilati dai fascisti. Immagini diventate simbolo della riconciliazione tra i due popoli. La consegna della doppia laurea ad honorem sarà un'occasione per ribadire questo spirito di condivisione di valori per un futuro di pace, in un luogo come Trieste segnato dolorosamente dalle ferite della storia del Novecento, e il coronamento del percorso centenario dell'Università di Trieste, che da sempre, ha detto Di Lenarda, svolge un ruolo di cerniera di dialogo. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Sciopero di 8 ore domani dei lavoratori della sezione nuova metallurgica delle Acciaierie Ferriere Nord di Osoppo per richiamare l'attenzione dell'azienda sulla questione cruciale della sicurezza sul lavoro. La settimana scorsa, ricordano infatti David Bassi, segretario generale della FIOM CGL di Udine, e Fabiano Venuti, referente della FIM CISL dell'Alto Friuli, abbiamo assistito purtroppo a un altro grave incidente che ha coinvolto un manutentore delle Ferriere Nord. È giunto il momento di dire basta agli infortuni. Siamo aperti a un dialogo, continuano i due sindacalisti, che attraverso la contrattazione miri all'incremento delle misure di protezione già previste per legge, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più i lavoratori e l'azienda nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro sicuro. Il Friuli Venezia Giulia è tra i protagonisti della fiera dedicata ai viaggi e tempo libero a Monaco di Baviera, un'occasione per fare il punto sul mercato turistico tedesco, che continua a scegliere la regione e a crescere nei numeri, ora anche in montagna e nelle città d'arte. Il servizio. Il trend del ritorno del turismo d'Oltralpe in regione, cominciato nel post-pandemia, si conferma anche nel 2023 e oggi il turista tedesco appare attratto non più solo dal mare e dalle spiagge, ma anche dall'entroterra e dalle montagne del Friuli Venezia Giulia. Stando ai dati elaborati da Promoturismo, nell'ultimo anno c'è stato il sorpasso di montagne e città in termini di aumento di presenze di tedeschi rispetto al 2022, cresciute del 20% solo nell'ambito turistico del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, bene anche la Carnia al più 18% e l'ambito Piancavallo Dolomiti Friulane al più 6%, col segno più pure le città con in testa Pordenone al più 16%, seguita da Trieste, Udine e Gorizia, che oscillano tra il 7 e il 12% in più. Il mare ha invece consolidato la forte crescita del 2022. La media segna sempre nel 23 un aumento di oltre il 3% di turisti tedeschi in regione, pari a più di 1.400.000 presenze. I numeri sono il frutto della strategia messa in campo, che punta a rendere maggiormente attrattivi i territori nelle diverse stagioni dell'anno, spiega l'assessore regionale al turismo Sergio Emilio Bini, dalla più grande fiera dei viaggi del tempo libero della Baviera in corso a Monaco, dove il Friuli Venezia Giulia è presente con un proprio stand allestito da Promoturismo e da 13 operatori del territorio. Oggi, giornata clou, l'incontro fuori salone con 190 fra giornalisti e operatori del settore per promuovere le potenzialità del territorio, considerando le caratteristiche dell'utenza tedesca che, ricorda Bini, ha un alto potere d'acquisto e per il 70% si affida ad agenzie viaggi e tour operator per prenotare la propria vacanza. Dalla fiera intanto Bini ha annunciato anche il dato previsionale per l'avvio dell'estate del 2024, già più 10% di prenotazioni negli alberghi di Lignano e più 8% in quelli di Grado rispetto all'anno precedente. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. È cominciata poco dopo mezzogiorno a Milano l'autopsia sul corpo di Liliana Resinovic, la triestina di 63 anni che era stata ritrovata senza vita 2 anni fa nel parco di San Giovanni, 20 giorni dopo la scomparsa. La salma era stata riesumata martedì su disposizione della Procura di Trieste, che ha incaricato alcuni esperti di effettuare il nuovo esame alla ricerca di eventuali ulteriori particolari che possano precisare le cause della morte. Ieri sera il marito Sebastiano Visintin, mai indagato, è stato ospite per la prima volta negli studi della trasmissione Rai Chi l'ha visto. Non so se sia stata uccisa o sia suicidata, non ho risposte, ha detto tra l'altro. A causa degli alti livelli di inquinamento previsti per i prossimi giorni, a partire da domani e fino a nuova comunicazione, a Pordenone e negli altri 13 comuni che aderiscono tornano in vigore le misure previste dal piano antismog e dunque riduzione delle temperature negli edifici, stop al riscaldamento a legna e divieto di accendere fuochi all'aperto. Diamo uno sguardo al tempo, cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 8 gradi, a Gorizia 13 gradi, a Udine 11 gradi e 5 decimi, a Pordenone 10 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 11 gradi, a Forni di Sopra 10 gradi e mezzo, a Piancavallo 9, a Tarvisio 7, sul Monte Lussari 8 gradi, sul Monte Zoncolan 6 gradi e mezzo, a Lignano 8 gradi e 5 decimi, a Grado 7 gradi. Secondo l'ARPA Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio avremo cielo da poco nuvoloso a variabile per nubi alte, dalla serata saranno possibili foschie o locali nebbie più probabili sulla laguna e sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto, zero termico in serata verso i 3.000 metri circa. Cooperative Alpe Adria, che rappresenta le cooperative di Udine, Gorizia e Trieste, e la Caritas diocesana di Udine hanno dato vita a un innovativo protocollo d'intesa, il primo del genere sottoscritto con un'organizzazione datoriale, che mira a valorizzare le competenze di persone che vivono in un momento di fragilità, ma anche a dare risposte a un tessuto produttivo che ha bisogno di lavoratori. Cooperative Alpe Adria promuoverà dunque, attraverso le proprie imprese associate, l'opportunità di attivare percorsi di conoscenza e sperimentazione con le persone coinvolte nel progetto Caritas Cantiere del Lavoro, per poter valutare concrete occasioni per il loro inserimento o reinserimento lavorativo. Numerose le forme di accompagnamento previste per le persone che beneficeranno del protocollo. Confcooperative Alpe Adria, ad esempio, garantirà un contributo per le spese di trasporto. Ci saranno poi un dialogo continuo tra i due enti, percorsi di formazione, tirocini e colloqui periodici. Un operatore Caritas farà da punto di riferimento per ogni persona inserita. Sono le 12:43 minuti, la pagina della cultura e degli spettacoli sulle tracce della letteratura italiana e friulana nel Friuli Venezia Giulia si intitola un incontro in programma questa sera a Gorizia alle 18 al Kulturni Dom nell'ambito della giornata della cultura slovena. Miran Kosciuta, poeta, traduttore e professore associato di lingua e letteratura slovena all'Università di Trieste, dialogherà con il giornalista Mirko Martincic. La serata è promossa dalla cooperativa Maia. Federica Manzon torna nella città in cui è nata, Pordenone, per presentare il suo nuovo libro, Alma, nel quale la storia personale e la guerra dei Balcani si fondono in una vicenda che porta con sé riflessioni profonde e interrogativi sulle relazioni, sull'identità e sul rapporto con il passato. Alle 18, negli spazi dell'ex Ipografia Savio di Pordenone, la scrittrice dialogherà con il curatore del Festival Dedica, Claudio Cataruzza, e l'attrice Carla Manzon curerà alcune letture tratte dal romanzo. A Federica Manzon abbiamo chiesto che cosa sono, per lei, le radici. Per me le radici sono innanzitutto qualcosa di non definito, non qualcosa che è dato dall'origine del sangue una volta e per sempre, ma sono qualcosa che si costruisce intanto nella scelta e poi nel tempo, con gli incontri, con il nostro cambiare, con l'immaginare anche, come capita Alma, che sia deve capire quale delle tante parti che stanno dentro di lei e della sua famiglia è la radice che la tira più forte, forse non ce n'è una più forte, ma anche il rapporto con i luoghi che sono le sue radici, sono un rapporto che non ha mai dato una volta per tutte, ma è fatto di fughe, ritorni e di scelte molto più che di appartenenze date appunto di nascita. Le radici di Alma sono fra l'altro a Trieste. Che cosa significa avere le radici in una città come Trieste? Significa soprattutto essere continuamente esposti da un lato a quella grande apertura di libertà che è rappresentata dal mare, la fisicità anche che rappresenta il mare, e dall'altro avere dentro di sé quella differenza che è il confine, avere dentro di sé il continuo rapporto con un altro che è anche un altrove, che è molto familiare però anche sconosciuto, che spaventa perché l'altro fino a non tante decine d'anni fa era proprio l'altra parte del mondo dei due blocchi in cui era diviso Occidente e Oriente, e il blocco dell'Est, e però anche un altro che ci incuriosisce, che ci chiama, con cui siamo familiari, questo un po' per lei. Appuntamenti con la storia a Casarsa della Delizia, si ripercorreranno questa sera le vicende di Porzus, nell'eccidio avvenuto tra il 7 e il 18 febbraio del 45 venne ucciso anche il fratello di Pierpaolo Pasolini, Guido Alberto. In sala consiliare alle 18.30 sarà presentato il libro L'eccidio di Porzus, le testimonianze dei partigiani azionisti al processo di Lucca di Gianni Cisotto. L'autore dialogherà con lo storico Paolo Strazzolini. Il confine orientale nel Novecento tra storia e memoria è il titolo della conferenza che la ricercatrice storica Alessandra Kersevan, in programma San Giovanni al Natisone a Villa De Brandis alle 18.30. Si apre una 3 giorni di iniziative in occasione del giorno del ricordo da parte del gruppo Ermada. Alle 18 al ristorante Borgo San Mauro sarà presentato il libro Una vita appesa al filo di Erminia Dionis con testimonianze storiche. A Ragogna si presenta il libro Quel lento viaggio in collina, storia del tram Udine-Fagagna-San Daniele di Romano Vecchiet, in biblioteca comunale alle 18.30. Roberto Zaccaria, ex presidente della RAI ed ex parlamentare, da 10 anni alla guida del Consiglio Italiano per i Rifugiati, presenterà nel pomeriggio a Trieste il suo libro Un professore chiamato presidente, edito da Odoia. Sarà al Caffè San Marco alle 18 e dialogherà con Giovanni Marzini. All'incontro parteciperà Monica Guerritore. E Monica Guerritore è regista e protagonista con Massimiliano Vado di Ginger and Fred, che da questa sera sarà in scena al Politeama Rossetti. Si tratta dell'adattamento teatrale del capolavoro di Federico Fellini, che vide protagonisti Giulietta Masina e Marcello Mastroianni. È la vicenda di alcuni personaggi spaesati che si ritrovano per partecipare allo show di Natale di una televisione privata, e tra loro ci sono appunto Amelia e Pippo, due attempati ex ballerini di Tip Tap. Un'altra grande interprete, Anna Bonaiuto, sarà in scena a Udine al Teatro Nuovo. Per il ciclo Soggetto Donna, Bonaiuto presterà la voce a Caterina Percoto, la contessa contadina, nel testo di Jacopo Angelini. L'inizio alle 19.30. A Trieste debutta questa sera Un sogno a Istanbul, che Alberto Bassetti ha tratto dalla Cotogna di Istanbul di Paolo Rumiz. Lo spettacolo, nuova produzione della Contrada, parte dal Teatro Bobbio, dove sarà in scena fino a domenica, prima di un tour che la prossima settimana lo porterà a Cividale, Grado e Lignano e poi in tutta Italia. Gli interpreti sono Maddalena Crippa e Maximilian Nisi, sul palco con Mario Incudine, che ha composto anche le musiche, e Adriano Giraldi. La regia è firmata da Alessio Pizzek. Un altro debutto nazionale è quello di Orazio, incautamente ispirato dall'Amleto di William Shakespeare, che va in scena stasera a Gradisca al Teatro Comunale alle 21. Si tratta di una coproduzione di artisti associati di Gorizia. Il testo e la regia portano la firma di Paolo Mazzarelli, che ci ha raccontato come nasce questo lavoro. Lo spettacolo nasce fondamentalmente da un mio bisogno personale, artistico, umano, che è quello di relazionarmi, incontrarmi con i ragazzi che potrebbero essere i miei figli. Io non ho figli, ma sono molto interessato, guardo con grande affetto e curiosità chi oggi ha 20 anni, 25 anni. Mi metto nei panni delle loro difficoltà, perché noi padri, potenziali o reali, abbiamo lasciato loro un mondo non molto facile, ecco, non molto orientato verso la miglior direzione. Da questo desiderio nasce lo spettacolo e, come dire, questo punto di vista si ritrova sia nell'Amleto, dove tutto sommato dei ragazzi di 25 anni, quali sono Amleto, Orazio e i protagonisti, si ritrovano appunto ad avere a che fare con le macerie di un mondo lasciato loro dai padri, e per padri intendo anche gli zii, le madri, insomma, dalla generazione precedente, che porta in quel caso a una distesa di morti, perché poi nell'Amleto muoiono tutti nel tentativo di perpetrare la vendetta paterna e quindi la catena delle violenze paterne che lo spettro richiede. Da lì sono partito per poi arrivare a scrivere in realtà un testo completamente nuovo, una commedia che ha per protagonisti tre ragazzi di oggi, uno dei quali si chiama Orazio, che si svolge in un teatro, e anche qui c'è di mezzo l'Amleto, perché in qualche modo due di questi tre ragazzi hanno a che fare con una opportunità che prevede la messa in scena dell'Amleto. Quindi è un gioco teatrale, una commedia che si svolge in un teatro, ma potrebbe svolgersi davvero in un ufficio o in un ospedale, perché poi le dinamiche sono quelle, e che ha al centro il desiderio di giovani di superare, come dire, le macerie lasciate in eredità dai propri padri. La pagina dello sport: Tuffi, grandi altezze, nono posto per il triestino Andrea Barnaba nella gara da 27 metri che ha chiuso il programma dei campionati mondiali di Doha in Qatar. Nelle prove di questa mattina, terzo e quarto tuffo, l'atleta della Triestina Nuoto ha guadagnato due posizioni rispetto alla prima giornata, raggiungendo il punteggio complessivo di 325,05. Barnaba, 19 anni, il più giovane dei 25 concorrenti, ha preceduto l'ucraino Oleksiy Prigorov, compagno di club nella società alabardata, mentre l'altro azzurro, il comasco Davide Baraldi, ha chiuso al 12° posto. Il titolo mondiale è stato conquistato dal britannico Aidan Heslop, che a sorpresa con l'ultimo tuffo ha superato il francese Gary Hunt. Tra i due alla fine meno di 10 punti di margine. Al terzo posto il romeno Catalin Preda. Si sono aperti a Pordenone i campionati italiani indoor di tiro con l'arco, che fino a domenica vedranno gareggiare nei padiglioni della fiera più di 1300 atleti. In pedana anche gli azzurri, che la prossima settimana saranno di scena in Croazia per gli europei, che metteranno in palio diversi passi olimpici. Oltre 1300 arcieri di quasi 300 società da tutta Italia, 14 dal Friuli Venezia Giulia, sono a Pordenone da oggi a domenica per il campionato italiano indoor di tiro con l'arco, ospitato per la prima volta in fiera. È il più grande evento della stagione agonistica italiana, con le sue tre divisioni: arco nudo, compound e arco olimpico. Sulla linea di tiro anche gli arcieri della nazionale olimpica e paralimpica, impegnati nel percorso verso i Giochi di Parigi, e gli azzurri, che a breve saranno in gara agli europei in Croazia. Mario Scarzella è presidente Fitarco. Grandi numeri, perché è il più gran campionato che abbiamo mai fatto. Da un punto di vista agonistico ha doppia valenza. Prima di tutto vengono assegnati i titoli che dopo un anno di competizione a livello regionale, interregionale, nazionale determinano i campioni d'Italia. Secondo luogo è l'ultima gara, infatti domenica sera già i nostri ragazzi partiranno per la Croazia, quindi sono due eventi che si concatenano uno con l'altro e servono di preparazione per la fase estiva. Tutti quanti noi agoniamo e temiamo, in quanto è la preparazione per la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi. Un grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Volley a due femminile, la CDA Talmassons è stata sconfitta al quinto set nel turno infrasettimanale contro il San Giovanni Marignano. Il match disputato a Lignano è rimasto in equilibrio per 4 set. Nell'ultimo parziale poi le romagnole hanno vinto in maniera netta. Questi parziali: 25-20, 23-25, 25-21, 23-25, 5-15. In classifica Talmassons viene raggiunta proprio dal San Giovanni Marignano al 6° posto con 41 punti. Biathlon, torna in gara stasera Lisa Vitozzi, grande protagonista ai mondiali di Nove Mesto in Repubblica Ceca. La sappadina, neocampionessa iridata nella 15 km individuale, sarà impegnata nella staffetta mista a coppie, una delle prove più spettacolari della manifestazione. Lisa Vitozzi gareggerà con Tommaso Giacomè, il 24enne atleta trentino. Gli azzurri puntano a ripetere il podio dello scorso anno ai mondiali di Oberhof. La prova comincerà alle 18 con diretta su Rai Sport HD. Martina Vozza, 19 anni, sciatrice paralimpica ipovedente, e Ilenia Sabidussi, 28 anni, guida di Martina, atlete della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, hanno conquistato il bronzo nello slalom a Sapporo in Giappone, dove si sta disputando la Coppa del Mondo. La coppia friulana si è ricomposta in questa stagione dopo l'infortunio al ginocchio che ha bloccato a lungo Vozza la rottura di un legamento crociato. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Federico Comar e Mauro Coloni, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. 12:54, prossima edizione alle 15. Grazie per l'attenzione e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.